Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Da quanto tempo la lasciava sola Raimondo? Da quanto? E la rammentava assiduamente la prima pena che egli le aveva fatta, tanto tempo addietro. Buono con lei nei primi tempi del matrimonio, durante il viaggio di nozze e il soggiorno di Catania, appena giunto a Milazzo, dove erano andati per affari, per vedere il padre e la sorella di lei, egli aveva dichiarato di non aver preso moglie per vivere in quella bicocca, per incappare nella tutela del suocero dopo essere uscito da quella della madre. Sulle prime il barone aveva fatto una vera festa al genero, trattandolo quasi come la principessa, sedotto anche lui dalla grazia fine del giovane, inorgoglito dalla fortuna di essersi imparentato coi Francalanza. Il barone aveva da lui la procura per amministrare le proprietà date alla figlia e in questa amministrazione intendeva seguire criteri e sistemi antichi dei quali sapeva la bontà. Raimondo, invece, per occupare gli ozi di Milazzo, quando non passava le intere giornate giocando al casino con gli scapati presto conosciuti, si faceva render conto dal suocero dei suoi provvedimenti, per biasimarli, per suggerir quelli che a suo giudizio bisognava adottare. In questa materia egli dimostrava un'assoluta ignoranza degli affari, una stravaganza di concetti molto simile a quella del fratello Ferdinando. Il barone ne rideva, egli se l'aveva male. Allora Matilde interveniva, mutava soggetto al discorso, componendo il lieve screzio con sorrisi prodigati egualmente alle due persone che più amava al mondo. Il suo grande dolore fu perciò nell'accorgersi che se voleva vederle in pace, le conveniva evitare che stessero a lungo insieme. Quasi premio di questa sua rassegnazione, aveva finalmente provato le ineffabili gioie della maternità. E allora, come per incanto, i tempi felici della luna di miele parve tornassero. Tra perché Raimondo divenne veramente migliore, tra perché la stessa, assorta in soavi pensieri, in cure minute, pose meno mente alla vita di lui. Tutti aspettavano un maschio, tranne lei stessa, che se avesse osato contrastare i desideri altrui e far differenze tra i figli, avrebbe preferita una bambina. Una bambina nacque, infatti, e quando si trattò di battezzarla, quantunque ella e il padre avessero desiderato chiamarla come la loro cara perduta, riconobbero tuttavia la convenienza di darle il nome della principessa. Rammentava forse più la madre felice e i trattamenti sgraziati della suocera e della parentela. Quell'angioletto venuto a restringere il nodo che la univa a Raimondo, a dissipare le nubi che minacciavano il suo bel cielo, non parlava unicamente di pace e d'amore. Ahimè, più presto che non credesse, ella s'era accorta del proprio inganno. Già da quando erano venuti a Firenze, la suocera non le aveva più scritto, né risposto alle sue lettere, né accennato a lei nelle lettere che mandava al figliuolo. Il silenzio continuò durante la gravidanza e dopo il parto comprese anche la bambina. Quella figlia che doveva ancora più stringerli insieme, che perlomeno doveva essere nel dolore il gran rifugio della madre, non solo pareva non dir nulla al cuore di Raimondo, ma non bastava neppure a confortare lei stessa, poiché ella non poteva più scusare, come nei primi tempi, la condotta sempre più sfrenata del marito, poiché non ignorava più che egli la trascurava per altre donne, e poiché questa scoperta le faceva un tratto sentire il coltello della gelosia. Quando da Catania scrissero a Raimondo di venir presto a casa, quando la stessa madre moribonda lo chiamò, ella fece di tutto per indurlo a partire. Ma vedendolo sordo alla voce della morente, sordo alle stesse ragioni dell'interesse, restare a Firenze, l'angoscia di lei s'era esacerbata, tanto aveva dovuto credere potenti le ragioni, i legami che lo trattenevano. Giusto in quei giorni le sue viscere avevano avuto un nuovo fremito. Ella era madre un'altra volta, fredda, cattiva madre, se non tripudiava quella scoperta. Ma come avrebbe potuto gioirne quando il padre della sua creatura le cagionava tanta tristezza? Il desinare era già finito e Lucrezia, la principessa e Consalvo s'erano già levati di tavola quando Raimondo rientrò. Mostrava di essere molto allegro ed aver buon appetito. Alla domanda del duca rispose che gli amici lo avevano trattenuto, che non s'era accorto dell'ora tarda. Il principe non gli rispose. Alzandosi da tavola mentre il fratello divorava la minestra serbata in caldo, disse al duca: «Zio, vuoi venire un momento con me?» E lo condusse nel suo scrittoio. «Vostra eccellenza può vedere ogni giorno», riprese il principe, «che vita fa Raimondo, e come invece di darmi una mano a sistemare gli affari della successione, pensi a divertirsi lasciando tutto sulle mie spalle. Parlargli di interessi è inutile, o non mi dà retta, o non capisce, o finge di non capire». Il duca approvava con un cenno del capo. Tra sé giudicava veramente un po' strane quelle lagnanze del nipote. Non era forse quella la prima volta che egli teneva a qualcuno della famiglia un discorso di quel genere? «Ora», continuava frattanto Giacomo, «io credo prima di tutto conveniente, nell'interesse generale, che la divisione si faccia al più presto. In secondo luogo bisogna che tutti sappiano ciò che ho saputo in questi giorni io stesso». E dopo una breve pausa, quasi a preparar l'animo dello zio alla dolorosa notizia: «L'eredità di nostra madre è piena di debiti». Il duca si cavò il sigaro di bocca dallo stupore. «È vero che i primi giorni dopo la disgrazia ebbi avviso di alcuni piccoli effetti sottoscritti da nostra madre, possessori dei quali durante la malattia avevano pazientato oltre la scadenza. Ma credevo naturalmente che fossero infime somme di quei debitucci che tutti, in certi momenti, anche i più facoltosi, hanno bisogno di contrarre. Potevo sospettare che invece sono migliaia e migliaia d'onze e che ogni giorno spunta un nuovo creditore e che se continua di questo passo il meglio dell'eredità se ne andrà in fumo». Il duca ricominciò a scrollare il capo, ma con espressione diversa. I legatari lagnavansi d'aver avuto troppo poco e adesso bisognava dir loro che avevano anche meno. «Perché non parli loro tu stesso?» suggerì al nipote. «Perché?» rispose il principe col leggero fastidio di chi ode rivolgersi una domanda oziosa. «E non sa vostra eccellenza come sono qui in casa? Chiusi, sospettosi, diffidenti? Crede vostra eccellenza che io non mi sia accorto di certi maneggi, che non abbia udito certe accuse sorde sorde? Pare che l'abbiano tutti con me, specialmente quella testa pazza di Lucrezia». Quantunque deciso a non mantenere la promessa fatta qualche ora prima alla nipote, il duca, costretto dalla domanda, rispose, con un sorrisetto, per temperare quel che vi poteva essere di poco gradito nelle sue parole: «Tu ti lagni d'essere stato spogliato, e invece spogliati si credono essi». Il principe rispose con un sorriso più amaro del primo: «Proprio, eh? E come? Perché?» «Perché avrebbero avuto meno di quel che gli spetta. Perché c'è la parte di vostro padre». Giacomo s'accigliò un momento, poi proruppe con mal contenuta violenza: «Allora perché accettano il testamento? Perché non chiedono i conti? Mi faranno un piacere, mi renderanno un servizio». Nella sala gialla, Don Blasco rodevasi le unghie, sapendo quella bestia del fratello in confabulazione col nipote e non potendo udire i loro discorsi. Dalla contrarietà strofinava, spasseggiava in lungo e in largo. Non udiva neppure quel che dicevano intorno a lui. Thank you. Edmondo, che d'ordinario scappava via appena finito di prendere un boccone, pareva volesse restare in casa per suo piacere. E Matilde, tutta riconfortata, dimenticata un tratto la tristezza d'un'ora innanzi, lo seguiva con lo sguardo ridente. Se avesse prodigato alla sua bambina le carezze che quella sera faceva al principino. Questi, nel gruppo degli uomini, ripeteva le declinazioni al cavaliere Don Eugenio. «E non lo tormentate più, povero bambino!» esclamò Donna Ferdinanda. «Qui, con la zia! Ti rompono la testa con tutte queste storie, eh? Rispondi loro!» «Debbo forse fare il mastro di penna?» Don Eugenio, udendo disprezzare le belle lettere, rispose. «Bisogna studiare, invece. L'uomo tanto più vale quanto più sa. E poi bisogna che tu faccia onore al nome che porti. Tra i tuoi antenati c'è Don Ferrante Uzeda, gloria siciliana». «Don Ferrante?» esclamò la zitellona. «E che fece Don Ferrante?» «Come che fece?» Tradusse Ovidio dal latino, commentò Plutarco, illustrò le antichità patrie, templi, monete, medaglie. Ah! Ah! Donna Fernanda era scoppiata in una risata che non finiva più, che si risolveva in spruzzi di saliva tutti in giro. Il cavaliere rimase a bocca aperta. Don Cono non sapeva che viso fare. Frattanto arrivavano nuove visite. La duchessa Radalì e il principe di Roccasciano, donna Isabella Fersa col marito. L'entrata di quest'ultima mise sottosopra la società. Il principe, che ordinariamente non era molto galante con le signore, le andò incontro fino all'anticamera. Raimondo anche lui lo seguì tra i primi. Ella portava come sempre un abito nuovo fiammante, che Lucrezia esaminava ora con la coda dell'occhio, e la principessa, Chiara, tutte le altre giudicavano a una voce elegantissimo. Don Mariano parlava della parata della regina di cui quel giorno era il natalizio. Fersa del colera, della quarantena di 10 giorni decretata allora allora contro le provenienze da Malta, della fiera di Noto rimandata, del pericolo che correva un'altra volta la Sicilia. E il vocione di Don Blasco rispondeva: «Questa è l'impresa di Crimea, il regalo dei fratelli piemontesi, capite?» Il duca, quasi non comprendesse che l'allusione era diretta a lui, ripigliava il discorso della guerra interrotto a tavola. Diceva che Cavour l'aveva sbagliata. La via era un'altra: raccogliersi, restarsene tranquilli, curare le pieghe del 48. A Messina aspettano l'arciduca Massimiliano. Verrà anche da noi? Raimondo a quella domanda di Don Mariano saltò su come morso da una vespa. E che volete che venga a fare? Per vedere l'elefante di Piazza del Duomo? Voi altri vi siete fitto in capo che questa sia una città e non volete capire che invece è un miserabile paesuccio ignorato dal resto del mondo. Donna Isabella, dite voi, quando mai l'avete udito nominare fuori? È vero, è vero. Giusto in quel momento Don Giacomo entrò nella sala. Era così turbato in viso e si capiva così chiaramente che portava una cattiva notizia che ognuno tacque. Non sapete? Che cosa? Parlate! Il colera è scoppiato a Siracusa. Tutti lo circondarono. Come? E chi ve l'ha detto? Adesso, alla farmacia di mensa. Notizia sicura. Viene dall'intendenza. Colera di quello buono, fulminante. Ogni altro interesse cede come per incanto dinanzi alla generale inquietudine per la salute pubblica, giacché della notizia portata da Don Giacomo, sulle prime smentita, poi confermata, non fu più possibile dubitare, quando di lì a qualche giorno non si parlò più di casi sospetti a Siracusa, ma del divampare del morbo a Noto. L'anno innanzi, come nel 37, gli Uzeda erano scappati alla loro villa sulle pendici della montagna, e poiché il colera non arrivava mai lassù, erano certi di liberarsene. Il principe, smesso a un tratto la credine, riparlava d'accordo e d'unione, voleva tutti con sé al sicuro, tutti gli zii e tutti i fratelli. I Fersa non sapevano ancora dove fuggire il colera. Il principe consigliava loro di prendere in affitto una casa al Belvedere, per essere vicini. E a donna Isabella sorrideva quel partito, nonostante che sua suocera preferisse rifugiarsi a Leonforte, come l'altr'anno. «Voi dove andrete?» domandava Raimondo. E il giovane, che le si trovava sempre a fianco: «Dove andrete voi stessa?» Ella chinava gli occhi, con una severa espressione di biasimo, quasi offesa. «E vostra moglie? Vostra figlia? Parliamo d'altro!» Nonostante l'allarme cagionato dalla pestilenza, L'intrinsechezza delle due famiglie si strinse ancora di più in quei giorni. Fersa, che era stato sempre lieto e superbo di venire al palazzo Francalanza, adesso godeva nell'esservi ricevuto con segni di particolare gradimento. Non solo Raimondo, ma anche, forse più, Giacomo, dimostrava molto piacere in compagnia di lui e di donna Isabella. Quando sua moglie andò fuori la prima volta, dopo il lutto, egli volle che facesse loro una visita. La contessa, per desiderio del marito, accompagnò la cognata. Da sola Matilde forse non sarebbe andata in casa di quella donna. Non voleva chiamare gelosia il sentimento che le ispirava. Non sapeva bene rendersi conto della repulsione quasi istintiva che gravava ogni giorno più forte. Quando tentava di spiegarla a se stessa, l'attribuiva più che altro alla radicale diversità del loro carattere, alla leggerezza, all'affettazione, alla mancanza di schiettezza che le pareva scorgere in lei. Già le prime voci di pestilenza, inquieta per la lontananza del padre e della bambina. Ella gli aveva domandato le sue intenzioni, ma suo marito non s'era ancora deciso. L'anno innanzi, in Toscana, udendo le notizie delle stragi in Sicilia, del pazzo terrore che regnava nell'isola, dello scioglimento d'ogni civile consorzio, aveva espresso la propria soddisfazione per essere lontano dalla selvaggia terra natale, dove, diceva, non lo avrebbero sicuramente capitato in tempo d'epidemia. Per questo ella era quasi sicura che sarebbero presto passati nel continente, prendendo con loro la bambina per via. «Andiamo via. Andiamo per adesso a casa mia. Non voglio lasciar sola Teresina. Saremo anche più lontani dal focolare della peste. Ho da chiudermi in un paesuccio di mare in tempo di colera, per crepare come un cane. Bisognerebbe che fossi impazzito. Scrivi piuttosto a tuo padre e a tua sorella di portar qui la bambina». La villa Francalanza, al bel vedere, era tuttavia nello stato in cui trovavasi 3 mesi addietro, al momento della morte della principessa. Là si riunirono con la rispettiva servitù la famiglia del principe e i suoi ospiti, cioè Chiara e il marchese, donna Ferdinanda, il cavaliere don Eugenio, Raimondo e sua moglie. Ferdinando non aveva voluto sentirne di lasciare la tenuta delle ghiande. Don Blasco e il priore don Ludovico erano già scappati, con tutti i monaci di San Nicola, a Nicolosi. La villa degli Uzeda era tanto grande da capire un reggimento di soldati, nonché gli invitati del principe. Ma come il palazzo in città, a furia di modificazioni e di successivi riadattamenti, pareva composta di parecchie fette di fabbriche accozzate a casaccio. Non c'erano 2 finestre dello stesso disegno, né 2 facciate dello stesso colore. La distribuzione interna pareva l'opera di un pazzo, tante volte era stata mutata. Altrettanto avevano fatto dell'annesso podere. Un tempo, sotto il principe Giacomo XIII, questo era quasi tutto un giardino veramente signorile. Amante dei fiori, il principe aveva sostenuto per essi una delle tante spese folli che erano state causa della sua rovina. Ma venuta donna Teresa, ogni cosa fu messa nuovamente sossopra. I fiori, essendo roba che non si mangia, rose e gelsomini, furono divelti, i pilastri ridotti a mattoni, la serra trasformata in stalla per i muli. Ora, appena giunto, il principe ricominciava anche qui l'opera innovatrice iniziata al palazzo. Era d'eccellente umore e trattava benissimo i suoi ospiti. Faceva una corte devota alla zia Ferdinanda, usava molte cortesie al fratello e alle sorelle, al cognato marchese e alla stessa cognata Matilde. A poco una società numerosa si era venuta raccogliendo in casa del principe. Tutti i signori rifugiati al Belvedere, tutti i personaggi ragguardevoli del luogo, venivano alla Villa Francalanza, dove con un trattamento d'acqua e anice il principe si faceva fare la corte. Il tema obbligato di tutti i discorsi erano naturalmente le notizie della città dove il colera si diffondeva, lentamente però, senza divampare con la forza spaventosa dell'anno innanzi. Poi ciascuno dava notizie dei parenti e degli amici rifugiati qua e là pel bosco etneo. La cugina Graziella, che era la zaffarana, mandava biglietti o ambasciate coi carrettieri quasi tutti i giorni per sapere come stavano i cugini e dir loro come stava ella stessa e il marito e salutarli caramente e mandare regali di frutta e di vino. La duchessa Radaliu Zeda, dalla Tardaria, non scriveva perché il duca, nel trambusto dell'improvvisa scappata, era diventato furioso. La pazzia nel ramo dei Radalì era una malattia di famiglia. Il duca aveva dato nelle prime smanie 3 anni innanzi, alla nascita del suo secondo figlio, Giovannino. Thank you.